Letture di Radio 24. I risultati pubblicati sul sito genitoriale Bounty.com vedono il ritorno di un modello familiare anni 50. La famiglia perfetta, stando alle rilevazioni del campione, sarebbe quella con due figlie, mentre il record dei litigi si verifica quando si sale a 4. Altro che auguri e figli maschi, la famiglia perfetta è quella composta dai due genitori e da due figlie femmine. Più docili, più facili da accudire, più disposte ad avere fiducia in mamma e papà, ma soprattutto meno rumorose, meno litigiose, meno esigenti. Di buon comando, insomma. Chi ce l'avrebbe detto che agli anni 10 del 2000 uno studio commissionato dal sito genitoriale Bounty.com scoprisse con una ricerca condotta su più di 2000 casi che la felicità sia una famiglia con due figlie come tanta iconografia anni 50 e 60 ci aveva abituato e tutto quello che in mezzo c'è stato. Dalla filmografia alle recentissime serie TV, da Modern Family all'Italico Medico in Famiglia, dove la grande istituzione è celebrata in modo allargato e contaminato dal campionario della modernità. Coppie gay, coppie con un figlio solo e adottato, coppie con figli propri più quelli del primo letto dell'altro. Sì, ben vengano, rispondono gli autori della ricerca, ma questo non vuol dire che secondo il nostro campione la felicità stia lì. E d'altra parte, questa fotografia di perfezione familiare si va a sovrapporre al quadretto riproposto al mondo dalla famiglia Obama, dove papà Barack e mamma Michelle sembrano convivere senza troppe turbolenze, finora, con Malia e Sasha, 12 e 9 anni, vigilando con cauta amorevolezza sulle loro adolescenze molto esposte. Proprio come avveniva negli anni 60 nella famiglia Bignardi, genitori e due figli, ben raccontata da Daria nel suo libro Non vi lascerò orfani. Perché in vibrante contrasto con tanta letteratura sulle sorelle coltelle, già da piccole le due bambine vanno d'accordo più dei maschi, recita la ricerca. E poi, da grandi, svilupperanno solidarietà insperate, come molte coppie solidali dello spettacolo. Per esempio le giovanissime Dakota e Elle Fanning, saga di Twilight la prima, Somewhere la seconda, per non parlare delle più attempate gemelle Kessler, che almeno apparentemente hanno simbioticamente continuato per tutta la vita. Sempre solidale, ma su uno sfondo doloroso, la relazione fra le sorelle Epstein, Denise ed Elizabeth, figlie della scrittrice ucraino-francese Irene Nemirovsky. Quando la scrittrice fu deportata insieme al marito Michel ad Auschwitz, dove poi entrambi morirono, affidò alle due bambine una valigia, dove, disse, c'erano i ricordi di famiglia. In realtà, dentro quella valigia, che le ragazzine ebree difesero attraverso fughe continue per tutta Europa, c'era, scritto fitto fitto a mano su un quaderno, il capolavoro della scrittrice Sweet francese, che fu pubblicato solo dopo molti anni. Peggio, molto peggio però, va nelle famiglie, sempre secondo la ricerca britannica, se le figlie si raddoppiano e da due diventano quattro. I genitori devono essere pronti a tutto, anche a domare liti e accapigliamenti, almeno 4 al giorno, distribuiti per lo più nelle ore canoniche, colazione, mezzogiorno e cena, nonché al momento della buonanotte. Ognuna ha le sue pretese e reclama i suoi spazi, e ci mancherebbe, tanto che parecchi genitori del campione, 63%, hanno dovuto comprare non solo un'auto, ma anche una casa più grande. E sono spese e scenette sicuramente più spinte di quelle che si vivevano in casa March con le quattro sorelle Meg, Jo, Betty e Amy, ritratte dalla penna di Louise May Alcott in un romanzo ottocentesco che ha forgiato più di una generazione. Ma in tempi più recenti, chissà quanto hanno patito il doppiatore Renato Izzo e sua moglie con tutte quelle ragazze dalla voce d'oro per casa, Simona, Rossella, Fiamma e Giuppi, e cosa succedeva quando cominciavano a cambiare tono e a confrontarsi sui loro diritti. Per non dire del regista Luigi Comencini e di sua moglie, la principessa Giulia Grifeo di Partanna, alle prese con il quartetto Cristina, Francesca, Paola ed Eleonora, tutte parecchio appassionate di cinema. Meglio va, ma non ci sono spiegazioni, quando le figlie sono tre. E meglio quindi si saranno trovati Fosco Maraini e sua moglie Topazia Alliata con Dacia, Yuki e Tony. In mezzo, tutta la gamma di altre 9 combinazioni che si creano considerando da 2 a 4 figli ed escludendo i figli unici. E Giselle Bundchen e le sue 4 sorelle? La tribù di 8 figli del sociologo Giuseppe De Rita? I 9 fratelli Prodi? inclassificati nella ricerca, perché vanno oltre la famosa soglia di 4, ma, per quanto ne sappiamo è dato il numero, venuti su piuttosto spartani e senza turbolenze. Avete ascoltato la lettura dell'articolo La famiglia perfetta è con 2 figlie, il record dei litigi se sono 4, pubblicato sul Corriere della Sera di giovedì 7 aprile, a firma di Maria Luisa Agnese. Letture di Radio 24. Entro il 2050 è probabile che l'aspettativa di vita arrivi oltre i 90 anni. Contenti? Sì, certo. Ma insieme all'età media crescerà anche la spesa sanitaria. Bisognerà per forza trovare nuove soluzioni per non ridurre le nostre città in enormi ospedali. Il funzionario dell'Ufficio Nazionale di Statistiche prova a dirlo con un umorismo tutto suo. Gli inglesi stanno decidendo di smettere di morire. Non raccogliendo alcun genere di riscontro, neppure un labbro stirato come cenno di cortese comprensione, decide di andare al sodo. Un suddito della regina su 4 con meno di 16 anni è destinato a diventare centenario. Questa la sua aspettativa di vita. Poi, perché non ci siano dubbi, scandisce le parole. 100 anni tondi. Un destino attualmente riservato a 11 milioni di connazionali. 900.000 di loro hanno già più di 65 anni. Il dubbio attraversa la sala piena di professori universitari e di direttori sanitari. Andiamo verso a un mondo migliore o pieno di infelicità? Seduto su una poltrona di pelle con lo stesso odore dell'interno di una Lexus, il conservatore Ian Duncan Smith, responsabile delle politiche sul lavoro, ossessionato dall'idea di un paese soffocato dalle malattie croniche e schiacciato da un peso pensionistico in grado di schiantarlo alle fondamenta, ribadisce in tempo reale che l'età per ritirarsi assistiti dallo Stato passerà prima a 66 e poi a 70 anni nel giro di un lustro. Siamo orgogliosi del nostro sistema. Peccato che non regga più. D'altra parte fu introdotto nel 1936, quando solo il 33% degli uomini e il 40% delle donne aveva un'aspettativa di vita superiore ai 65 anni. E David Sinclair, responsabile dell'International Longevity Center, aggiunge: «Siamo destinati a sopportare un poderoso aumento della pressione fiscale». Anche perché, se è vero che già oggi in Europa si vive fino a 77 anni, sono solo 61 quelli in cui il fisico non ha bisogno di cure e la forbice è destinata ad allargarsi. Va da sé che il problema non è solo inglese. Le donne francesi sono le più longeve, arrivano a 84,4 anni, 3 mesi in più delle italiane. Tra gli uomini il primato va agli svedesi, 78,8. La Romania è il fanalino di coda, tra le donne 76,2, la Lituania chiude tra gli uomini 65,1. Ma entro il 2050 uomini e donne resisteranno fino a 90 anni e le spese sanitarie saliranno vertiginosamente. Un mondo oggi forse inimmaginabile, o forse già cominciato. Le compagnie telefoniche, ad esempio, investono massicciamente su quello che si chiama mobile healthcare, cioè curarsi col telefonino, un aggeggio che ha persino il 70% della popolazione subsahariana. Il dottor Victor Higgins, manager della Applied Nanodetectors, mostra un apparecchio telefonico che è in grado di controllare l'asma. Si soffia dentro e quello registra ogni singolo dato inviandolo a un centro ricerche. Se i risultati sono allarmanti, il paziente viene avvisato. Non saremo più costretti a perdere ore negli ospedali. Malattie e riabilitazioni saranno gestite da tecnologie che chiunque potrà avere in casa o portarsi in tasca. Il giro di affari è già di 40 miliardi di euro l'anno. Se una parte di società è destinata a pagare, un'altra, come sempre, incasserà moltissimo. Diana Athill è una signora speciale. Ha 94 anni e vive in una casa di cura londinese. È una donna naturalmente elegante, con occhi molto più azzurri di quello che è banalmente il loro colore. È una scrittrice e tra i suoi amici ci sono, o ci sono stati, Philip Roth, John Updike e Mordecai Richler. Ma adesso la persona con cui va più d'accordo è una donna di 105 anni che vive sotto il suo stesso tetto. È in gamba, ma vorrebbe morire. Dice che il suo corpo, pur riuscendo a fare ancora molto, non le dà più alcun piacere, anzi, l'ostacola. E spiega che tutto quello che comincia prima o poi deve finire. Beh, ha ragione. La Ethel racconta che invecchiando ha sentito i suoi sintomi come crimini. Sapeva che avrebbe dovuto rendere piena confessione al dottore, ma non aveva voglia di sentire la condanna. Si è dovuta rassegnare. Questa previsione dei 100 anni non mi dà nessuna soddisfazione. Non ci voglio arrivare. Ma nessuno è autorizzato a prendere la decisione al mio posto. Dobbiamo tenere gli occhi aperti. La tentazione di scaricare gli anziani è forte. Invece vanno curati. Per quello che si può, finché lo decidono loro. Lei lo sa bene che non basta un filo di ferro a riparare le fessure dell'esistenza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Malaguti, Il futuro sarà da centenari, pubblicato dalla Stampa del 21 aprile. Tra Novara, Valsesia e Verbano c'è il più grande distretto del mondo per la lavorazione dell'ottone. Vuol dire che qui costruiscono i rubinetti che molti di noi hanno in casa. Ma il mercato nazionale non basta e per sfondare all'estero bisogna fare sistema. Abbiamo individuato un partner a Civita Castellana per le ceramiche, poi altre due aziende specializzate in arredo bagno. Noi ci abbiamo messo i rubinetti e d'ora in avanti in America ci muoveremo insieme. Uffici e magazzino ad Atlanta, showroom a New York, Los Angeles e San Francisco. Oltreoceano la domanda è in ripresa, ma con il cambio ormai stabilmente al di sopra di 1,4 dollari per un euro, i benefici rischiano di essere impercettibili. È così che la rubinetteria La Torre di Invorio, nel Novarese, ha deciso di agire sulla leva dei costi e in particolare sulla struttura distributiva. Con l'euro così forte non c'era più spazio per un intermediario, racconta il presidente Massimo La Torraca. Per questo abbiamo deciso di occuparci direttamente della commercializzazione del prodotto che effettuiamo con aziende italiane a noi complementari, puntando a due obiettivi. Risparmiare sulla logistica e sul marketing, ma anche ampliare il nostro mercato, offrendo non solo i rubinetti, ma tutto quel che occorre per un bagno chiavi in mano. Quella che arriva dalla rubinetteria La Torre, 10 milioni di fatturato, di cui il 70% all'estero, è una delle storie di ordinaria efficienza che si raccontano qui, nell'Alto Piemonte, e in particolare a San Maurizio d'Opaglio, capitale di un distretto che tra Novarese, Valsesia e Verbano fattura oltre 1,5 miliardi e rappresenta il più grande polo al mondo per la lavorazione dell'ottone. A San Maurizio, 3.000 abitanti e 4.500 lavoratori sparsi su 140 aziende, la crisi ha picchiato duro e si è presa anche un pezzo del 2010. Ora gli indicatori sono tornati a migliorare e ci si affida per lo più all'export, sperando che il più 8,4% dell'anno scorso trovi conferma nel 2011. Siamo ancora in una fase altalenante, ma il trend è in crescita, osservava qualche giorno fa il presidente dell'Associazione Industriali Fabio Ravanelli, presentando le previsioni sul secondo trimestre, che in particolare sugli ordini in arrivo dall'estero vede gli ottimisti prevalere di 11,5 punti sui pessimisti. Come a dire che si dovrebbe andare oltre gli 840 milioni di esportazioni dell'anno scorso, anche se vediamo che il mercato non si è ancora stabilizzato, riporta Corrado Giacomini, amministratore delegato dell'omonima azienda, che con i suoi 180 milioni di fatturato è uno dei giganti di San Maurizio. Nel 2010 abbiamo visto crescere i ricavi del 10%. Quest'anno speravamo di veder confermato il trend di crescita, ma non è così scontato, spiega Giacomini, che racconta una situazione schizofrenica. Con gennaio vivace, febbraio e marzo di nuovo bassi e aprile in risalita. In condizioni come queste ci vorrà del tempo per tornare ai livelli 2007. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Ferrando «Novara getta la rete oltreoceano», pubblicato dal Sole 24 Ore del 21 aprile. L'Italia è ripartita grazie alla scienza. No, non è una notizia di oggi, ma un dato storico. Nel 1861 lo slancio unitario sostenne politiche di innovazione, infrastrutture e istruzione. mentre nel secondo dopoguerra la ricerca e la tecnologia fecero molto per risollevare il paese, dalla chimica ai primi calcolatori elettronici. E oggi? Ci sono due momenti nella storia del nostro paese in cui siamo usciti da una situazione davvero difficile. Il primo è stato dopo l'Unità d'Italia, il secondo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cosa li accomuna? Il fatto che, a dispetto di tutto, gli italiani hanno avuto fiducia nel futuro, hanno scommesso sulla capacità del paese di farcela e hanno creduto nella scienza come motore di crescita. Oggi siamo di nuovo sotto le macerie, con un paese più povero e ingiusto di ieri e con una scarsa prospettiva di riprendersi. Ritroveremo la fiducia che ci ha aiutato nel passato? Guardiamo alla storia. Nel 1861 l'Italia era un paese poverissimo, l'analfabetismo molto diffuso, nel mezzogiorno mancavano le infrastrutture, non c'era un servizio postale né trasporti. Ma il clima di euforia e di fiducia permise al paese di investire in scienza, innovazione e istruzione. Quintino Sella, ingegnere di formazione, da ministro delle finanze, per risanare i conti operò tagli drastici ai finanziamenti, ma mai a quelli per la scuola. E gli scienziati, che avevano combattuto per l'Unità d'Italia, parteciparono attivamente alla costruzione dell'Italia appena unita, ricoprendo anche cariche istituzionali. L'impegno nasceva dall'idea che per lo sviluppo civile del paese bisognasse alzare il livello tecnologico e quindi ci volesse una politica della scienza nazionale. Poi si formò una classe politica professionale che scalzò gli scienziati e già agli inizi del Novecento la luna di miele tra scienza e società era finita. Nel 1945 l'Italia usciva dalla guerra in condizioni disastrose e nessuno avrebbe scommesso una lira sul suo futuro. Ma anche qui un clima di fiducia che si creò tra la scienza e alcuni settori produttivi permise di risollevarsi dalle macerie. Tra il 1945 e il 1964 l'Italia cresce in modo esponenziale anche grazie alla fiducia nella ricerca e nell'innovazione. Tanto che a inizio anni 60 il paese vantava poli di eccellenza scientifico-tecnologici che il mondo gli invidiava: informatico, petrolifero, nucleare, chimico, medico. Da allora sono passati quasi 50 anni e non si è più avuto un rapporto così felice tra scienza e società in Italia. L'Italia è in declino da oltre 20 anni. Il PIL italiano, fino a metà anni 80 migliore della media europea, da quel momento diventa peggiore. Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono tra i più bassi in Europa e nel mondo. Ci sarà un legame tra questi fatti? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Cristiana Pulcinelli 1861 e 1945, quando l'Italia si salvò grazie alla scienza, pubblicato dall'Unità del 18 aprile.